Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Si tratta naturalmente di un compromesso, ma è un compromesso positivo, che ha superato le resistenze di alcuni paesi del nord e che toglie argomenti ai nemici dell'Europa. Insomma, tutto sommato, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il giudizio di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, nonché uno dei maggiori esponenti, naturalmente uno dei tre principali esponenti dell'opposizione di centrodestra, è piuttosto positivo. Ha accolto con soddisfazione questo accordo raggiunto dopo questa maratona negoziale, ne abbiamo parlato ieri mentre andavamo in onda, ha superato questa trattativa infinita in seno all'Unione Europea, a Bruxelles, tra i 27 paesi, davvero ha raggiunto il Guinness dei primati arrivando oltre la mezzanotte. Mai un vertice così lungo nella storia dell'Unione Europea, e appunto intesa raggiunta sui fondi da erogare per i paesi più colpiti dal Covid. E Berlusconi, vi dicevo, ha detto, lo avete sentito, che è un compromesso certamente, ma pur sempre positivo. Quindi parte dell'opposizione, Berlusconi in primis, ma anche la leader, la presidente di Forza di Fratelli d'Italia, Meloni, ha detto: io tifavo per l'Italia, quindi si è raggiunta questa situazione, l'Italia resta in piedi, ma puntini puntini. Poi ha fatto le sue osservazioni, mentre completamente insoddisfatto, anzi parla di truffa, di una grande fregatura, Salvini, leader della Lega. Conte invece, ovviamente, come possiamo immaginare, è assolutamente soddisfatto, orgoglioso di questo risultato, anzi dice: dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani. Appena tornato in Italia da Bruxelles ha incontrato Mattarella, che a sua volta insomma ha espresso la sua contentezza per questa intesa, che naturalmente approfondiremo per capire luci e ombre, i numeri eccetera, quindi in cosa consiste effettivamente questo accordo da un punto di vista quindi anche di quello che le ripercussioni sulla tenuta dell'Europa, ma anche poi sulla politica interna. Poi due argomenti molto molto importanti anche questi: uno che riguarda il vaccino che è stato elaborato in collaborazione tra Italia, un laboratorio di Pomezia con cui abbiamo parlato diverse volte, e l'Università di Oxford, anche questa è stata protagonista qua Effetto Notte, che sembra ormai dare davvero delle grosse speranze di risultati positivi. Si sta avviando alla fase 3, sentiremo il presidente del laboratorio di Pomezia su questo. E poi un'altra notizia che sembrerebbe una svolta storica nella cura almeno di alcuni tumori, perché si parla di una ricerca, sempre che viene, in questo caso viene dagli Stati Uniti, secondo la quale si potrebbero con dei normali esami del sangue prevedere poi l'insorgenza di tumori con 4 anni di anticipo. Pensate quindi nella cura e nel prendere in tempo certi tumori come potrebbe cambiare poi la vita di tante persone. Quindi non perdete neanche un minuto di questa puntata ricchissima, come sempre, ma ancora più ricca a volte di altre. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure WhatsApp sul 349-238-6666. Non perdete la concentrazione, allacciate le cinture. I dati sul coronavirus in Italia: contagi in calo, più 129 nuovi in 24 ore, le vittime sono 15. E a Capri obbligo di mascherine all'aperto nel fine settimana. Il vaccino messo a punto in collaborazione tra Italia e Gran Bretagna si avvia alla fase 3. Se darà risultati positivi, milioni di dose entro fine anno. Recovery Fund: all'Italia il 28% del totale degli stanziamenti. Conte soddisfatto, dice: abbiamo approvato un piano ambizioso, ora una task force per le riforme. L'allarme del Fondo Monetario Internazionale: la pandemia danneggia le donne, si amplia il gap di genere, la politica adotti misure che riducano gli effetti della crisi. Genova: il nuovo ponte si chiamerà San Giorgio, dice il sindaco Bucci, annuncia inaugurazione il 3 agosto. Alex Zanardi: dopo il terribile incidente in handbike dello scorso 19 giugno, l'atleta ha trasferito per iniziare la riabilitazione. Sterilizzazione fallita, gli ospedali di Brescia dovranno risarcire 92.000 euro per mantenere il figlio non voluto fino a 25 anni. Sentiamo quindi, come sempre, dei dati aggiornati sul coronavirus in Italia. Cala ancora il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 129 a fronte dei 190 di ieri. Le nuove vittime sono invece 15 per un numero complessivo dall'inizio della pandemia di 35.073 decessi. I nuovi contagi in Italia sono in calo, 129 a fronte dei 190 di ieri, due in più purtroppo le vittime, che nelle ultime 24 ore sono state 15, di cui una in Lombardia che ha registrato 34 nuovi casi, 6 le regioni a contagi zero, il Veneto ne ha registrati 22, l'Emilia Romagna 18, 12 la Liguria. Intanto, come pubblicato sulla rivista scientifica Lancet, il vaccino messo a punto a Oxford con la collaborazione dell'italiana IRBM ha indotto una forte risposta immunitaria nel 95% dei partecipanti alla sperimentazione. Se anche la fase 3 darà i risultati sperati, entro fine anno arriveranno in tutto il mondo milioni di dosi, ha detto il presidente di IRBM Pietro Di Lorenzo. Quanto all'Italia, il ministro della Salute Speranza ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con Germania, Francia e Olanda per 400 milioni di dosi per i paesi europei, di cui 60 entro l'anno. Nell'attesa prosegue la battaglia contro i focolai. Uno si è creato nel Casertano, a Conca della Campania, dove una badante dell'Est ha contagiato l'anziano che accudiva e così anche gli altri familiari. 15 per ora le persone in quarantena. Sono inoltre risultati positivi e posti in isolamento 25 migranti sbarcati in Sicilia e poi trasferiti in Basilicata. Il Covid non si ferma anche nel resto del mondo. Il Brasile, che ha superato le 80.000 vittime, ha iniziato in giornata i test di fase 3 testando sull'uomo il vaccino cinese Sinovac Biotech, che a quanto pubblicato sempre su Lancet risulta sicuro, inducendo anch'esso una forte risposta immunitaria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di vaccino, come vi dicevo, poi parleremo con il presidente del IRBM di Pomezia, proprio per capire a che punto è, se è davvero da caute speranze. L'allarme adesso del Fondo Monetario Internazionale, che dice che la pandemia del Covid-19 rischia di penalizzare maggiormente le donne, ampliando il gap di genere, lo scarto di genere che persiste nonostante i 30 anni di progressi. Lo afferma appunto il Fondo Monetario Internazionale, invitando la politica ad adottare misure che possano mitigare gli effetti della crisi sulle donne e prevenire ulteriori passi indietro sull'uguaglianza di genere. Essenziale, dice ancora il Fondo, l'adozione di misure che limitino gli effetti della pandemia sulle donne, perché quello che è positivo per le donne è positivo per le disuguaglianze di reddito, la crescita economica e la resilienza. L'accordo europeo adesso sugli aiuti economici. Da paladina del no alla condivisione dei rischi a madrina della prima forma di mutualizzazione del debito in Europa. Sta parlando naturalmente della cancelliera tedesca Angela Merkel, arrivata quest'anno al suo ultimo mandato, e si chiude con un colpo di scena destinato a cambiare per sempre il futuro dell'Unione Europea. Dopo lo storico accordo sul Recovery Fund, i 27 si troveranno ad avere un debito in comune che dovranno gestire per i prossimi 40 anni e dei programmi di sviluppo su cui tutti i governi vigileranno. Dopo l'accordo su sussidi e prestiti del Recovery Fund sono le ore dei commenti con la maggioranza, che celebra il risultato ottenuto. Addirittura abbiamo anche migliorato l'intervento a nostro favore, se consideriamo la proposta originaria della Commissione europea della Presidente von der Leyen. Abbiamo conservato gli 81 miliardi a titolo di sussidi, abbiamo incrementato notevolmente l'ammontare, l'importo dei miliardi concessi in prestito, sono passati da 91 a 127 miliardi, registrando un incremento di 36 miliardi. Apprezzamento e soddisfazione per l'intesa sul Recovery Fund, queste le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, ricevendo al Quirinale al ritorno dal summit il Premier Conte, che sottolinea ancora la verità è che l'approvazione di questo piano rafforza l'azione del governo. Soddisfatta la maggioranza, che adesso chiede velocità nelle proposte per l'accesso ai fondi, mentre l'opposizione con Forza Italia, che approva, chiede che il programma di riforme venga realizzato in Parlamento e non affidato a una nuova task force competente. Matteo Renzi, segretario di Italia Viva, si dice contento per il colpo inflitto ai sovranisti. Adesso spendiamo bene questi soldi, lavoro, non sussidi. Secondo il ministro degli esteri Luigi Di Maio, l'Europa ha dimostrato di essere cambiata. Per il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, ora servono visione, concretezza e velocità, come il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che sottolinea l'Italia un'opportunità unica di rilancio. Dall'opposizione tiepida la reazione di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni sostiene che Conte è uscito in piedi, ma poteva e doveva andare meglio. Netto Salvini, che invita Conte, ci convochi quanto prima, parlando del centrodestra e di una fregatura grossa come una casa. Ma soddisfatte anche le parti sociali, una buona notizia per Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria, vicepresidente Confindustria, che sottolinea il problema liquidità delle aziende, e anche i sindacati, con la segretaria generale della CISL che invita a non sprecare l'occasione. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E poi c'è il nuovo ponte di Genova, 2 anni dalle 43 vittime nel crollo avvenuto il 14 agosto 2018, in vista ormai dell'inaugurazione, il nuovo manufatto ha un nome. L'annuncio del sindaco Bucci è arrivato mentre era in corso la terza giornata di collaudi. Il nuovo ponte sarà inaugurato lunedì 3 agosto e si chiamerà Ponte Genova-San Giorgio. Croce rossa in campo bianco, la bandiera di San Giorgio, è il simbolo della città sin dai tempi delle repubbliche marinare. Alla cerimonia parteciperanno il capo dello Stato Mattarella, il premier Conte, la ministra delle infrastrutture De Micheli, già oggi a Genova per la ripresa dei lavori del nuovo nodo ferroviario. In contemporanea in città è andata in scena la protesta per i danni provocati dal caos sulle autostrade in seguito ai lavori nelle gallerie. La De Micheli ha parlato di una narrazione sbagliata e ha motivato i tempi degli interventi. Il piano è stato fatto a gennaio, ci sono state delle verifiche che sono state, diciamo così, un po' sorprendenti e quindi si è resa necessaria un'accelerazione. Spiegazioni ribadite in un incontro in prefettura che non hanno convinto i rappresentanti delle categorie economiche e produttive. Inaccettabile che il ministro parli di narrazione, la merce che non arriva a destino, i porti che soffrono, commercio, industria che sono in ginocchio, abbiamo perso dei traffici. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la cronaca tra Calabria e Svizzera, 4 anni di indagini per una grande operazione contro la rete criminale. Sono finiti in manette in 75, ci sono 158 indagati nell'operazione contro l'andrangheta che la DDA di Catanzaro ha coordinato tra Italia e Svizzera, dove è stata scoperta una grossa emanazione della cosca Anello Fruci, operante nel Vibonese. Guardia di Finanza e Polizia Giudiziaria Federale Elvetica hanno indagato per 4 anni, utilizzando le informazioni di 29 collaboratori di giustizia e centinaia di intercettazioni. Coinvolto anche un finanziere che avrebbe rivelato segreti d'ufficio, ma è stato fermato anche Francesca Antonio Stillitani, ex assessore regionale calabrese ed imprenditore turistico. Il procuratore Nicola Gratteri sottolinea come sia indispensabile alla criminalità l'appoggio di pezzi delle istituzioni. Sostanzialmente la criminalità organizzata, intesa l'andrangheta in senso stretto, da sola non potrebbe commettere certi reati senza il controllo di una pubblica amministrazione corrotta e di una politica collusa. Sequestrati beni per quasi 170 milioni di euro, tra cui 3 villaggi turistici, immobili, terreni e società, ed è stato scoperto come dalla Svizzera arrivassero alle cosche molte armi. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. La Guardia di Finanza in Regione Lombardia per l'inchiesta sui presunti fondi della Lega. L'inchiesta giudiziaria sui presunti fondi della Lega ha fatto un balzo. La GDF di Milano è entrata negli uffici della Regione Lombardia per acquisire gli atti della compravendita dell'immobile di Cormano, in provincia di Milano, da parte della Fondazione Lombardia Film Commission, controllata dalla Regione. La Lombardia, guidata dall'allora governatore Roberto Maroni, finanziò l'acquisto del capannone con 1 milione di euro. Si dovrà dunque capire il livello di coinvolgimento da parte della politica e dei dirigenti lombardi. L'immobile fu ceduto a fine 2017 per 800.000 euro alla Fondazione Regionale, che all'epoca era presieduta dal commercialista vicino alla Lega, Alberto Di Rubba. A venderlo era stata la Andromeda, società riferibile a Michele Sciglieri, altro commercialista vicino alla Lega, tanto che nella sua sede milanese era stata domiciliata l'associazione Lega per Salvini Premier. La Andromeda l'aveva a sua volta acquistata dalla Paloschi per 400.000 euro, ma il conto non venne mai saldato dal liquidatore Luca Sostegni, bloccato qualche giorno fa dalla GDF mentre tentava la fuga in Brasile, indagato per estorsione, peculato e sottrazione fraudolenta di fondi. La Procura di Milano sta cercando di capire se l'acquisto sia stato fatto a prezzo gonfiato e se l'obiettivo fosse finanziare la società presieduta da uno dei commercialisti della Lega utilizzando fondi pubblici. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alex Zanardi, per lui si apre il tempo della riabilitazione. Da questa mattina è ospite in un centro di riabilitazione d'eccellenza in provincia di Lecco. Verso la fine della mattina una notizia che fa l'effetto del più clamoroso sole all'improvviso. Alex Zanardi lascia la terapia intensiva dell'ospedale di Siena, dove stava in bilico sull'orlo della vita da 1 mese e 2 giorni, per essere trasferito in un centro di riabilitazione in provincia di Lecco. Ora, l'ottimismo è sempre sentimento scivolosissimo, ma tutto questo vuol dire come minimo che Zanardi sia svegliato dal coma ed è vivo dopo l'incidente di cui sapete che nemmeno merita un aggettivo e dopo 3 interventi chirurgici, e che di arrendersi non ne aveva nessuna voglia. Poi ti capita di parlare con il dottor Claudio Costa, nome tutelare di tutti i piloti e una delle persone al momento più vicine ad Alex. E lui, il dottor Costa, che dell'ottimismo ha fatto una religione, ti dice: la sua vita è salva, il cervello ha subito dei danni, ma al di là dell'obiettività del medico c'è il sogno di un amico di vederlo tornare. Mi piacerebbe andare a Tokyo l'anno prossimo, alle Olimpiadi. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. I progressi della medicina, una tecnica basata sull'analisi del sangue, riconosce 5 forme di tumori comuni con un anticipo di 4 anni rispetto alle tecniche tradizionali. Lui indica la ricerca internazionale pubblicata su Nature Communication e coordinata dall'Università della California a San Diego. La tecnica chiamata PanSER riconosce precocemente nel 91% dei casi tumori di stomaco, esofago, colon retto, polmoni e fegato in persone senza sintomi e in futuro potrebbe entrare nella routine delle analisi di controllo. E di questo parlerò con un esperto oncologo. E poi a questo punto direi che possiamo chiudere con, anzi prima della chiusura, questa notizia di questo risarcimento mensile per 25 anni per mantenere un figlio non desiderato. È la condanna inflitta agli ospedali civili di Brescia, a cui una donna già madre di 3 figli si era rivolta per un intervento chirurgico di chiusura delle tube, ma che 2 anni dopo è rimasta incinta. Il fallimento della sterilizzazione è da attribuire a una esecuzione tecnica chirurgica inadeguata, è stato spiegato. Invece adesso Dario Ricci ci spiega come proseguono le partite di Serie A maschile oggi, Dario. Sì, 2 le gare in programma in questa inizio di 35esima giornata. Appena ieri ci eravamo lasciati con la vittoria della Juventus nel big match sulla Lazio, ma come ormai abbiamo imparato, la Serie A fino al 2 agosto prosegue dritta alla meta. Allora, siamo quasi al 90esimo di gioco a Bergamo e nessuna novità nel dirti che l'Atalanta è in vantaggio, cioè sta vincendo anche oggi contro il Bologna 1-0 per i bergamaschi. La rete a metà del secondo tempo del solito Muriel, l'attaccante che ha l'abitudine di entrare dalla panchina e poi scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori, l'ho già fatto per 18 volte, 18 reti quest'anno per il colombiano, 1-0 quindi per l'Atalanta sul Bologna. Atalanta virtualmente, anzi no, effettivamente seconda in questo momento in classifica a 6 punti della Juventus, alle 21.45 in campo Sassuolo e Milan. Roberto. Allora dopo, grazie Dario Ricci per questi aggiornamenti sulle partite di calcio. Ci fermiamo giusto per aggiornare chi si sta muovendo su strade e autostrade in modo da tornare tra pochissimo con un sacco di argomenti da approfondire con gli ospiti. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie in sintesi le avete sentite come sempre nella prima parte, lì ve le ho raccontate, adesso invece voglio approfondire con gli ospiti, sono tante le notizie importanti oggi e vedo i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, per esempio questo ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice: quante retoriche per questo accordo in ambito europeo, in realtà noi avremo per lo più prestiti da spendere con 1000 vincoli mentre i paesi frugali hanno avuto gli sconti, ovvero dice soldi senza versare come quota all'Unione Europea e spendere come gli pare. Questo è il commento di uno degli ascoltatori critico su questo accordo nel quale tra qualche istante, anzi adesso, ci addentreremo. Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Siamo all'alba del quarto giorno di una vertice lunghissimo, un Consiglio europeo, forse abbiamo stabilito i record, anche abbiamo superato per durata il vertice di Nizza. Siamo soddisfatti, abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso, adeguato a queste necessità che stiamo vivendo, che ci consentirà di affrontare questa crisi con forza, con efficacia. Voce roca, come sentite, un po' stanca di Presidente del Consiglio Conte dopo questa maratona negoziale entrata a pieno diritto. Già ieri lo prevedevo, se vi ricordate, in diretta, perché stavamo andando oltre i tempi addirittura del del vertice lunghissimo di Nizza del 2000, e se fosse arrivato a mezzanotte sarebbe entrato nel record del Guinness dei primati. E così è stato, perché sono state 4 giorni e 4 notti di vertice di Bruxelles, il summit quindi più lungo della storia dell'Unione Europea, tra mediazioni, scontri, incontri bilaterali, trilaterali, multilaterali, veti, spiragli, timori, speranze, durezze e flessibilità. Ma tanta e intensa fu la negoziazione che al fine giunse l'intesa. L'intesa sul bilancio europeo, ma soprattutto sui recovery fund, cioè sugli aiuti economici tra prestiti e sussidi ai paesi più colpiti dalla crisi causata dal coronavirus. All'Italia va il 28% del totale, è la quota più grande dei fondi stanziati appunto dall'Unione Europea. Una giornata storica per l'Europa, secondo i protagonisti, e su questo coinvolgo subito il nostro Moria Longo del Sole 24 Ore, scienziato della divulgazione finanziaria e economica. Buonasera Moria. Buonasera a tutti, grazie per lo scienziato. Senti, quindi per la prima volta nella sua storia l'Unione Europea emetterà dei titoli di debito comuni per finanziare il fondo per la ripresa dell'economia. Già questa è una svolta storica, possiamo definirla, come i protagonisti stessi hanno detto? Sì, è una svolta. Di debiti comuni in vari modi ne sono già stati emessi. Questo non è mai successo, una emissione o un programma da 750 miliardi e soprattutto non si è mai visto un programma che comprenda dei sussidi a fondo perduto per gli Stati. Quindi siamo oggettivamente è una svolta storica proprio nella concezione dell'Unione Europea. Certo, chi sogna l'Unione Europea tutti per uno, uno per tutti, non è questa, non siamo i tre moschettieri. L'Unione Europea è fatta di tanti stati, tanti in conflitto l'uno con l'altro, l'abbiamo visto in questa lunghissima maratona di negoziati, però alla fine qualcosa è stato partorito, un compromesso certo a ribasso rispetto alle attese magari iniziali, però un compromesso assolutamente accettabile per l'Italia e neanche così tanto a ribasso come sembrerebbe. E sono cambiate un po' le proporzioni, no? Tra prestiti e aiuti a fondo perduto, e questo è Sono cambiate le proporzioni a livello europeo. Se prima si prevedevano 500 miliardi a fondo perduto, adesso a fondo perduto a livello europeo sono 390 miliardi, quindi c'è stata una forte sforbiciata. Però è stata sforbiciata non la parte, o comunque in minima parte, la parte di soldi a fondo perduto destinati agli Stati. Mi spiego meglio, nei 500 miliardi che si prevedevano prima, una parte andavano direttamente agli Stati per fare i loro investimenti, una parte andavano a programmi europei che sono destinati a determinati settori. Ebbene, nella sforbiciata che ha portato dai 500 miliardi a 390, è stata tagliata la seconda gamba dei fondi dei soldi a fondo perduto, cioè quelle che andava a finanziare vari programmi europei, ma non, o comunque minima parte, la parte che è destinata invece agli Stati, questo fondo che viene chiamato Recovery and Resilience Fund. Per cui i soldi a fondo perduto per gli Stati di fatto sono stati quasi mantenuti, tant'è vero che nelle ipotesi iniziali di 500 miliardi l'Italia avrebbe avuto circa 84-85 miliardi a fondo perduto. Nell'ipotesi attuale l'Italia avrà 81,4, qualcosa del genere, a fondo perduto. Quindi soldi che non deve restituire, questi, che poi gli altri sono prestiti. Però dico, la rinuncia dei soldi a fondo perduto per l'Italia è veramente minima. Invece aumenta la possibilità di prendere a prestito fondi europei da Recovery Fund per l'Italia. Quindi a livello complessivo il pacchetto per l'Italia è aumentato. È lievemente diminuita la parte a fondo perduto, ma aumentata molto di più la parte di prestiti. È vero che i prestiti andranno restituiti, quindi sono prestiti, sono debito, non sono a fondo perduto. È anche vero però che l'Unione Europea si indebita a tassi a zero, quindi per noi sono tassi ampiamente convenienti, molto più convenienti, quindi avremmo, indebitandoci su questo fronte, avremmo un risparmio in termini di interessi considerevole. Ci sarà però, sappiamo che i paesi cosiddetti frugali, paesi rigoristi, insomma, quindi la Finlandia, la Svezia, l'Austria, l'Olanda e la Danimarca, in primis l'Olanda, volevano poter avere il potere di veto, no, sulla erogazione di soldi e il controllo su come questi soldi venivano spesi, perché si parla un po' di un'ipotesi passata dai singoli stati. Questa cosa non c'è, però c'è comunque un articolato sistema di verifiche, anche perché Moria, ogni paese dovrà presentare un piano di riforme, no? Sì, allora la storia del diritto di veto è molto complessa, nel senso che loro chiedevano che a verificare sull'utilizzo di questi fondi dati ai vari stati e chiedevano che fosse il Consiglio europeo, quindi dove c'è un diritto di veto per ogni paese. La realtà finale è stata che a verificare sull'utilizzo di questi fondi, a dare i fondi agli stati, sarà la Commissione europea. Dopodiché la verifica passerà all'Ecofin, che è l'unione dei ministri delle finanze, il quale deciderà con una maggioranza che deve essere la maggioranza dei paesi che hanno almeno il 65% della popolazione europea. Questo cosa significa? Che i paesi cosiddetti frugali, i rigoristi, quelli che ci andavano contro, per intenderci, per spiegarlo. Cosa sono il 10% hanno, no, hanno della popolazione? Circa il 10% della popolazione, esattamente, non avranno il diritto di veto. Resta però un'altra postilla che è stata aggiunta, perché poi queste trattative sono pesi e contrappesi. È stata messa la possibilità a qualunque paese europeo, se qualunque Stato non sta rispettando le raccomandazioni della Commissione europea, anche esterne all'utilizzo dei fondi del Recovery Fund, ma non legate ai conti pubblici, quindi non se uno Stato sfora al 3% di deficit, per intendersi, ma se uno Stato, per esempio, non sta facendo le riforme che la Commissione europea gli ha chiesto di fare, basta un paese europeo che può chiedere al Consiglio europeo di verificare questa cosa. Se si verifica effettivamente, il Consiglio europeo verifica effettivamente che quello Stato non sta facendo le riforme che gli sono state chieste, allora i fondi del Recovery Fund verrebbero bloccati per quello Stato, chiaro, finché lo Stato non si rimette in carreggiata. Diciamo. Moria, per chiudere, rispetto a quell'ascoltatore che diceva sì, insomma, abbiamo ricevuto questi soldi pieni di vincoli, eccetera, eccetera, questi prestiti, però i paesi rigoristi, loro hanno ricevuto in cambio dei forti sconti nei fondi che devono dare all'Europa. Ti ricordi quando già ero stato la tua trasmissione di tempo fa? È stata un'esclusiva mondiale, era stata la tua anticipazione, no? Gli sconti che loro chiedevano. Sì. Gli sconti li hanno ottenuti, tenete conto che gli sconti c'erano già prima nel bilancio precedente, saranno prorogati nel bilancio nuovo, cioè quello che va al 2027, saranno addirittura aumentati, questa è la loro parte di vittoria. Tenete conto che questi paesi però sono tendenzialmente contributori netti, cioè danno più di quello che prendono, anche al Recovery Fund, per cui hanno avuto la loro parte di vittoria, ma anche noi abbiamo avuto la nostra parte di vittoria. Abbiamo 209 miliardi potenziali tra sovvenzioni e prestiti a tassi agevolatissimi che possiamo spendere per investire in economia verde e in digitale, per dare una spinta alla crescita economica italiana che è stata massacrata dal coronavirus. Quindi io preferirei guardare l'opportunità che è per l'Italia piuttosto che la vittoria degli altri che l'hanno ottenuta, e è stata una trattativa dove un po' tutti hanno portato a casa qualcosa. Questa è un'occasione straordinaria per investire tanti soldi, soprattutto nella sostenibilità ambientale, e l'Italia ne ha altro che bisogno. L'importante è che adesso riusciamo a spenderli questi soldi, perché qual è il problema? Che basta un ricorso al TAR per un investimento, basta una procedura troppo lunga che i soldi verrebbero bloccati, perché 209 miliardi non sono soldi che ci danno, sono soldi che ci hanno promesso. Certo. I soldi ce li daranno ad avanzamento lavori, basta che i lavori si bloccano, ripeto, per un ricorso al TAR e non arrivano i soldi, quindi mi raccomando, agire con intelligenza, chiaro. Esattamente. Grazie Moria Longo, grazie e buon lavoro. Grazie a tutti voi. Ciao Moria. Una intesa che fa bene all'Italia, perché avremo più di 200 miliardi da spendere per investimenti, da programmare tra il 2021 e il prossimo triennio, quindi sono iniezioni di liquidità che ci servono a modernizzare il sistema produttivo nazionale, a fare una transizione green, digitale, a rendere questo paese più veloce. Soddisfattissimo, quindi lo avete sentito, il ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola, come del resto e prima di tutto il presidente del Consiglio Conte. Sentiamolo in questo passaggio che dice: abbiamo tutelato la dignità dell'Italia. Abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro paese, ma abbiamo anche agito per tutelare l'autonomia, le prerogative delle istituzioni comunitarie. Abbiamo respinto in questi giorni anche tentativi insidiosi in qualche modo di alterare la genuina vocazione di questo progetto europeo, inserendo, facendo intervenire logiche intergovernative e la logica dei veti incrociati. Quindi Conte, appunto, soddisfatto, orgoglioso, è tornato in Italia, è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso apprezzamento e soddisfazione per questa intesa che crea, dice, ha detto Mattarella, condizioni proficue per un efficace programma di interventi. Gualtieri, Ministro dell'Economia, ha detto che è pronto un piano di rilancio per l'economia a ottobre e ha detto anche che il governo ne esce rafforzato. E così Lina Palmerini, firma scintillante del Sole 24 Ore. Ciao Carolina, bentornata. Ciao Roberta, buonasera. Ma indubbiamente ne esce rafforzato Conte e questo successo comunque compatta la maggioranza per il momento. Resta sempre un problema sulle prossime tappe, perché è vero quello che hai detto, cioè che al momento c'è un risultato positivo sul tavolo e certamente lo è anche per le ragioni che ha appena spiegato benissimo Moria Longo. Il punto qual è? Che adesso comincia la fase difficile, anche Mattarella in occasione dell'incontro questa mattina con il Premier insomma ha fatto trapelare grande soddisfazione e apprezzamento, però anche l'esigenza adesso di fare in fretta, cioè di scrivere questo piano, di dettagliarlo, di fare interventi diciamo con il massimo della rapidità e anche della concretezza e efficacia, perché insomma abbiamo visto quali sono state le difficoltà del governo Conte ad affrontare l'emergenza, la questione della cassa integrazione. Tuttora mi sembra il governo abbastanza impelagato con la questione della riapertura delle scuole. Quindi fare un piano di misure, di interventi dettagliato che deve passare anche la vigilanza dell'Europa. Non è cosa facile. Però senti lì, Conte ha appena parlato di una task force. Appunto, sentiamo questo passaggio. Già, sentiamo il passaggio di Conte. La costituzione di una task force operativa, al di là già di uno staff che ha già lavorato al piano di rilancio, sarà definita, sarà una delle priorità che andremo a definire in questi giorni, perché dovrà partire al più presto. Quindi rispunta una nuova task force, come dicevi tu Lina, che però sembra che faccia trapelare dubbi sia dal Movimento 5 Stelle, che vorrebbe vedere coinvolti i suoi ministri direttamente, sia dal PD, che parla di una scelta come di altre precedenti ancora non discussa. Anche Italia dei Valori, Italia Viva nega la necessità di questa task force. È necessaria, è possibile che si debba nascere un'altra squadra? Guarda, un gruppo, infatti, sì. come ci dicevo, bene il risultato, però insomma, non è che comincia la discesa adesso, anzi comincia la salita, perché ci sono tutti questi dettagli, c'è un piano ancora da scrivere e c'è da decidere anche come si farà questo piano. La domanda è: l'amministrazione statale, i ministeri hanno le capacità per fare un piano di investimenti così impegnativo? Vorrei ricordare che non si programmano investimenti da molto tempo, da quasi 10 anni, cioè gli ultimi governi sono abituati a fare più spesa corrente, interventi appunto come bonus 80 euro, quota 100, reddito di cittadinanza. Questi sono soldi che si distribuiscono, ma la programmazione è un'altra cosa, è avere una visione del paese e indirizzare la crescita in alcuni settori. E quindi la domanda è se esistano ancora delle capacità. Se Conte ha parlato di task force, vuol dire che lui stesso sente l'esigenza di iniezioni, diciamo, di esperti, di qualcuno che ha competenze superiori. Esatto. Dice questo ascoltatore. Sperando che non vada a finire come la commissione di Colau. Colau, esatto, come insomma i dispersivi giorni degli stati generali. Dice questo ascoltatore: nutro seri dubbi, in particolare sulla capacità italiana di proporre riforme serie, programmi seri, spending review, docet, il tempo sarà comunque galantuomo. Però sentiamo, allora Conte ha ringraziato però l'opposizione, che dice l'opposizione ha capito, in primis Berlusconi, leader di Forza Italia, lo sentiamo in questa dichiarazione. Devo ringraziare tutti i ministri che mi hanno sostenuto, siamo una grande squadra, devo ringraziare anche le forze di maggioranza che unite, compatte, hanno sostenuto l'azione del governo, devo ringraziare anche le forze di opposizione, soprattutto alcuni loro esponenti, pur tra legittime critiche, hanno ben compreso in questi giorni l'importanza storica della posta in gioco. E permettetemi infine di ringraziare tutti gli italiani Si tratta naturalmente di un compromesso, ma è un compromesso positivo, che ha superato le resistenze di alcuni paesi del nord e che toglie argomenti ai nemici dell'Europa. Questo Berlusconi, sentiamo Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. A me pare che l'Italia, per carità, esca in piedi, però rispetto al trionfalismo che vedo da parte della maggioranza sarei un po' più cauta. I problemi ne rimangono. Intanto diminuiscono le risorse a fondo perduto e aumentano i prestiti. I soldi non arriveranno fino al 2021 inoltrato e noi ne abbiamo bisogno ora. Per spendere quei soldi ci sarà comunque bisogno del parere dell'olandese di turno, e questo può significare un commissariamento della nostra politica economica. E poi invece all'estremo opposto della maggioranza, fa parte dell'opposizione chiaramente Salvini, ma si distacca però dalle posizioni più caute o più positive di Berlusconi e Meloni. Sentiamo. Vediamo di spiegare di quanti soldi si parla, in quale arco temporale, per fare che cosa. E poi, dopo aver illustrato di che cosa stiamo parlando, spieghiamo come Lega di cosa ci occuperemo e preoccuperemo per evitare una fregatura che si vede grossa come una casa in fondo al tunnel di questa brillante operazione. Quindi parere positivo da parte di Berlusconi, qualche dubbio da parte di Giorgia Meloni, Salvini invece completamente, un parere negativo rispetto a questa intesa. Lina, per chiudere, sì. Pensi? Guarda, io direi che in questa circostanza, insomma, Berlusconi e Giorgia Meloni hanno trovato un'occasione in più per distinguersi da Salvini e quindi per togliergli lo scettro di leader del centrodestra. Mi pare che stiano cercando di non dargli nessuna primazia sul centrodestra. Questo è il senso politico che io vedo, insomma, dopo molto tempo passato a dettare la linea del centrodestra, mi pare che adesso invece sia la vogliono dire la loro, vogliono dire la loro. Chiarissimo. Grazie Lina Palmerini, un abbraccio, a presto. Prego, grazie. Ciao Lina, buon lavoro. Ora ci fermiamo come sempre per una pausa di riflessione, breve pausa, per i vostri commenti sempre pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure WhatsApp al 349-238-6666, poi parleremo di due importanti progressi in medicina. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, un giorno non potrete mai dire io questa non la sapevo, a proposito di notizie importanti, perché qua a Effetto Notte le trovate, ve le racconto tutte in sintesi nella prima parte e poi alcune le approfondisco con gli ospiti. Abbiamo parlato di un'analisi economico-finanziaria e di questo passo, di questa svolta storica dell'Europa di mettere in condivisione il debito, di creare questo fondo per il rilancio dell'economia europea, in particolare dei paesi più colpiti, e anche delle ripercussioni sulla politica interna. Adesso invece voglio tornare a parlare del vaccino anti-Covid fatto in collaborazione tra l'Università di Oxford e il laboratorio IRBM di Pomezia in Italia. Abbiamo avuto più volte qui i protagonisti, Alberto Toniatti del IRBM e Giacomo Gorini, immunologo dell'Università di Oxford. Adesso arriva la notizia che ci sono ormai, il vaccino sta proseguendo man mano nelle varie fasi sempre più positivamente. Dai test condotti su più di un migliaio di volontari è emerso che questo vaccino, sviluppato appunto dall'Università di Oxford e da IRBM con la collaborazione della farmaceutica AstraZeneca, è sicuro e attiva una risposta immunitaria nelle persone a cui è stato somministrato. È stato tutto questo pubblicato tra l'altro ieri sulla rivista prestigiosa scientifica Lancet. Ne voglio parlare adesso con Piero Di Lorenzo, che è presidente di IRBM di Pomezia. Buonasera Di Lorenzo, grazie della disponibilità. Buonasera a lei. So che lei è al centro dell'attenzione febbrile in questo momento, perché in ogni parte del mondo si sta cercando di sviluppare un vaccino e voi mi pare che siate già a buon punto, no? Si passa alla fase 3 adesso della sperimentazione? Guardi, senza essere ipocriti, diciamo che abbiamo preso atto di uno step importante, e però nello stesso tempo serve grandissima prudenza e bisogna affrontare adesso, perché siamo in mezzo al guado, bisogna affrontare la fase 3. La fase 3 che è già partita sia in Inghilterra che in Brasile, perché grazie al fatto che c'è un player di natura globale come AstraZeneca che sta guidando la produzione e poi guiderà la distribuzione, e quando è sembrato che fortunatamente l'epidemia in Inghilterra scemasse, che quindi non fosse probabilmente più possibile arrivare alla fine del test di fase 3 in Inghilterra, è stato subito aperto lo stesso test in Brasile e ora in Sudafrica. Quindi adesso saranno schierati 30.000 volontari sani e quindi il test sarà assolutamente credibile, ecco, dal punto di vista scientifico. Quindi entro fine anno, Di Lorenzo, se appunto questa fase 3 di sperimentazione così ampia nel mondo come numero di volontari darà, come si spera, appunto risultati positivi, potrebbero arrivare in distribuzione in tutto il mondo milioni di dosi di questo vaccino entro fine anno, o si parla del 2021? Guardi, sì, e sottolineiamo sì, il candidato vaccino dimostrerà la sua efficacia, perché ha già dimostrato la non tossicità, deve dimostrare compiutamente l'efficacia. Se dimostrerà la sua efficacia e quindi diventerà un vaccino a tutti gli effetti, io penso che è credibile che già entro la fine dell'anno, diciamo alla fine dell'autunno, e ci possa essere una distribuzione di dosi di vaccino. Non le so dire quanti milioni saranno, ma certo, siccome la produzione a rischio è già cominciata, e penso che se a fine settembre, ottobre, ci troveremo di fronte a dei risultati scientifici chiari e positivi, penso che entro un mese dalla data della pubblicazione dei dati si possa pensare di distribuire qualche milione di dosi, assolutamente. Quindi già a ottobre però si potrebbe sapere se è efficace o no in modo definitivo questo vaccino, Di Lorenzo? È una possibilità concreta, è una possibilità concreta. Quindi diciamo, se a fine settembre, primi di ottobre, ci sarà la notizia dell'efficacia del vaccino, ci serviranno un po' di giorni perché le agenzie regolatorie internazionali, penso all'EMA per l'Europa e all'FDA per gli Stati Uniti, impiegheranno un po' di giorni per validare, e poi si può passare alla distribuzione, tenendo presente che già oggi si stanno producendo a rischio delle dosi per essere pronti. Per essere pronti nel caso in cui, prima ancora di dimostrare l'efficacia. Benissimo, quindi ci riaggiorniamo, Piero Di Lorenzo, intorno a quel periodo, settembre-ottobre, insomma, rientro, diciamo così, sì, dalle ferie, dall'estate, speriamo, incrociamo le dita, insomma. Buon lavoro. D'accordo. Allora. Grazie. Anche intanto. A voi. Grazie. Arrivederci. Buona serata e buon lavoro davvero. C'è la viabilità e tra poco un'altra cosa molto interessante. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora ora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano, sempre con voi, parlavamo quindi di questo, diciamo, promettente vaccino in collaborazione tra Italia e Università di Oxford, di cui abbiamo parlato tante volte con Effetto Note, ma è di oggi anche un'altra notizia molto interessante, importante, che se è così come è stata pubblicata su Nature Communication, sembrerebbe, a proposito di svolte storiche, parlavamo dell'accordo europeo, potrebbe essere una tappa rivoluzionaria nella prevenzione, o meglio nella fondamentale tempestività della cura di alcuni tumori. Una ricerca internazionale coordinata dall'Università della California di San Diego, che ha elaborato una tecnica basata sulle analisi del sangue, che riconosce 5 forme di tumori comuni con un anticipo di 4 anni rispetto alle tecniche tradizionali. La tecnica viene chiamata PANSER, riconosce precocemente nel 91% dei casi i tumori di stomaco, esofago, colon retto, polmone e fegato in persone senza sintomi, e quindi in futuro potrebbe entrare nella routine delle analisi di controllo. E allora voglio chiedere che cosa ne pensa il professor Roberto Orecchia, direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Professor Orecchia, buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Quindi questo test promette di avere delle importanti ricadute sulla sopravvivenza dei malati di tumore proprio grazie alla diagnosi molto precoce, professore? Certamente la diagnosi precoce è un elemento fondamentale per garantire le maggiori probabilità di guarigione, e questo test conferma la validità, che peraltro già provata in altre situazioni, della cosiddetta biopsia liquida, cioè della possibilità di andare a identificare nel sangue con un semplice prelievo dei frammenti di DNA che possono essere predittivi dello sviluppo di un tumore nel futuro. Beh, professore, secondo lei con quali tempi, perché ogni tanto si sentono di queste cose, queste notizie così importanti che aprono grandi spiragli, con quali tempi si potrà adottare questa tecnica così in modo comune, diffuso? Beh, questo tipo di test non è il primo che succede, non è naturalmente di immediata applicazione. Chiaramente, come dicevo, è importante perché fra l'altro potrebbe rappresentare un elemento di diagnosi precoce in tumori che normalmente non hanno programmi di screening, come l'esofago, come lo stomaco, come i tumori del fegato. Chiaramente sarà necessario, al di fuori di questa prima indagine preliminare, anche se su un campione piuttosto importante di sieri, sarà evidentemente da testare, da applicare, in modo da comprendere quali sono le popolazioni a rischio che possono sottoporsi o che dovranno sottoporsi a questo tipo di test, essendo chiaramente impossibile quello di fare questo test su tutta la popolazione generale, ecco. Quindi più sulle persone a rischio. E tra l'altro questo test, leggevo, va a cercare i segnali estremamente precoci di un cambiamento in atto nel modo in cui si replica il DNA, che evidentemente inizia già parecchio tempo prima, se addirittura con 4 anni di anticipo. Nel sangue sono rilevabili dei frammenti di DNA che presentano delle situazioni atipiche, e che in qualche modo questi frammenti sono predittivi, cioè anticipano il fatto che in questi pazienti con un'alta probabilità, pazienti non lo sono in realtà ancora perché sono soggetti sani fino a prova contraria, comunque in questi soggetti si potrà poi sviluppare nel tempo un tumore, cioè esiste una predisposizione da parte di anomalie del DNA che possono portare all'insorgenza poi di una malattia clinicamente rilevabile. Comunque ci auguriamo, professor Roberto Orecchia, che anche se dice soltanto sulla popolazione a rischio, perché non si può immaginare di fare a tutte le persone degli esami così di prevenzione, di diagnosi, insomma, che sia però applicabile il prima possibile. Certamente bisognerà associare altri fattori di rischio con questi test in modo da mirare il test e quindi anche in un certo senso aumentarne l'efficacia. Chiaro. Grazie professor Roberto Orecchia. Grazie, ricordo, direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia. Piacere reciproco, buon lavoro e buona serata, professore. Buona serata a lei. Grazie. Oh, invece che serata è questa? Una partita è già finita di Serie A maschile, vero Dario Ricci? Sì, Roberto, è l'Atalanta. La prima della 35ª giornata e vince l'Atalanta sul Bologna 1-0, la rete al 62esimo di quel Muriel che ancora una volta, subentrando dalla panchina, è stato decisivo, 18esimo gol per il colombiano in stagione, sicuramente il bomber più letale dalla panchina di tutti i principali campionati europei. Atalanta che ora sale virtualmente al secondo posto in attesa poi della sfida che vedrà domani l'Inter impegnata a San Siro contro la Fiorentina, a 6 punti dalla Juventus, in campo poi giovedì a Udine. Attualmente in campo invece al Mapei Stadium a Reggio Emilia, Sassuolo e Milan, siamo intorno al 9° minuto di gioco, risultato ancora di 0-0, una buona occasione in apertura per il Sassuolo, ma ancora una fase di studio di questo match che pure si preannuncia accattivante. Accattivante, Sassuolo-Milan si dà, non so se è giusto dare per scontato certi risultati, ma in fondo ultimamente abbiamo visto che non sono tanto scontati, no Dario? Beh, sicuramente queste sono due tra le squadre più in forma del campionato, e poi l'assenza dei tifosi di fatto fa saltare quello che noi esperti chiamiamo il fattore campo, no? Insomma, chiaramente non c'è il peso, il sostegno dei tifosi di casa, e quindi non a caso appunto anche il numero delle vittorie fuori casa è piuttosto significativo rispetto alle abitudini. Ma se c'è una cosa che ci dobbiamo dimenticare in questo pazza estate del calcio, sono proprio le abitudini che ben conoscevamo prima. Accontentiamoci che si giochi e il resto verrà da sé, speriamo presto. Grazie caro Dario Ricci, grazie di questi aggiornamenti, buona partita, buona continuazione. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.